Ecco qui buona fede nel mondo della luna. Egli ancor dorme, e quando sia destato, esser non crederà nel mio giardino. Ma nel mondo lunare, fra le delizie peregrine errare. Ma Flaminia e Clarice son del tutto avvisate. Il tutto sanno, e ogni nostro disegno aderiranno. Lisetta nulla sa, ma non importa. Con un'altra invenzione farò che la si creda nel mondo della luna trasportata. Ella è da cieco amata e cieco la desia. E a ciò che egli aderisca alle mie voglie, gli ho promesso che lei sarà sua moglie. Flaminia sarà mia. E mia sarà Clarice. Oggi ciascun di noi sarà felice. Le macchine son pronte, son pronti i giochi, i suoni, i balli e i canti, cose che pare rare, prodigi e incanti. Ed io per esser pronto a sostener la mia caricatura, vado tosto a cambiar spoglie e figura. Buona fede ancor dorme, tempo è di risvegliarlo con questo sal volatile, sciogliendo spiriti che fissati all'oppio in sé ritornerà. Flaminia. E chiama la figliuola fra il sonno e la vigilia. Ehi, Clarice, Lisetta. Ora si va svegliando. Ehi, dove sono? Amico, là chi siete? Che non mi conoscete? Non ravvisate, eclittico? Voi quello? Sì, quel son io. Ma dove? Dove, amico, siamo noi? Dove la sorte tutti i beni aduna nel bellissimo mondo della luna. E mi vorrate? E non ve ne accorgete dello splendor che fa più bello di giorno, dell'aria salutar che spira intorno? È vero, oh che bel giorno, oh che aria soave! Mirati ai vostri piedi, dalle belle terre in fecondo nascer de rosa e gigli. Oh che bel mondo! Udite le dolce canto degli augelli canori. Oh, che contento son fuor di me, non so dove mi sia. Udite l'armonia che esce dagli arboscelli, agitati dai dolci venticelli. Questo mondo suonano meglio dei nostri suonatori. Or vedrete ballar ninfe e pastori. Thank you. che ninfe gentili, oh che fortuna, ha benedetto il mondo della luna. Ma sa l'imperatore che qui sono arrivato, è di tutto informato. Andiamola a ritrovare. Non è permesso con quell'abito andare innanzi a lui, se egli non ve ne manda uno dei suoi. Ma ecco i cavalieri con i paggi e i staffieri. Il gran monarca vi manda da vestire. Oh, che bel mondo! Signore che tagliato alla buona e di buon cuore. Andiamo, non vedo l'ora di vederlo, ma quanto in anticamera aspettarci farà. Qui in anticamera sospirar non si sente o bestemmiare. Ognuno può entrare, ognuno può andare dal suo sovrano e può baciargli le pie, nonché la mano. Ma restate, ch'io andrò ad avvisarlo. Egli ha tanta bontà che per farvi piacere qui venirà. E la mia cameriera e le mie figlie non verranno con noi? Sì, sì, verranno poi. Anzi, le nostre donne hanno iuse particolare a quest'impero, perché va con la luna il loro pensiero. E voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose e tutte amorose, ora ostinate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate. Che non è vero, sono lunatiche, oh signor sì, sì, sono lunatiche, oh signor sì, sì, sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose, tutte amorose, ora amorose, ora vezzose, ora ostinate, fiera arrabbiate, ora arrabbiate, ora ostinate, voi sapete come son fatte. Che non è vero, no, sono lunatiche, oh signor sì, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose, ora arrabbiate, ora vezzose, ora arrabbiate. Che non è vero, no, sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Muta pensiero, muta figura, muta pensiero. Son per natura sempre così, son per natura sempre così, sempre così. Certo credetemi che è così, certo credetemi che è così. E voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte. Ora vezzose, e tutte amorose, ora ostinate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate. Che non è vero, sono lunatiche, oh signor sì, sì. Sono lunatiche, oh signor sì, sì. Sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose, tutte amorose, ora amorose, ora vezzose, ora ostinate, fiera arrabbiate, ora arrabbiate, ora ostinate, voi sapete come son fatte, che non è vero, no! Sono lunatiche, oh signor sì, ora lo sapete come son fatte, ora vezzose, ora arrabbiate, ora vezzose, ora arrabbiate, che non è vero, no! Sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Che dica il vero, anzi disetta, or meco amorosa, or sdegnosetta, ma se ella qui verrà, forse si cangerà. Ben mi ricordo del bellissimo caso della donna menata per il naso. Che vedo qua il signor Ernesto, v'ingannate, io stella sono ed espero mi chiamo, e quando il cielo imbruna esco primiera a vagheggiar la luna. Sortito avrà l'impulso quel che Ernesto s'appella dalla costellazione della mia stella. Io non so che mi dir, voi tutto Ernesto certo rassomigliate. Non vi maravigliate che nella nostra corte abbiamo noi un buffon che somiglia tutto a voi. Grazie a vostra bontà del paragone, ma io per dirla lei non son buffone. Eppur nel vostro mondo chi sa fare il buffone fortunato? Capperi, egli è informato. Perché vi pare, vi piace il nostro mondo? In fede mia, a che un mondo si bel non piaceria. Ma per esser contento, una grazia signora ancor vi chiedo. Chiedete pure, che tutto vi concedo. Ho due figlie e una serva vorrei. Già ho capito, le vorreste con voi. Andrà per consolarle una stella cometa ad invitarle. Ma le stelle comete portan cattivo augurio. O gente pazza del mondo sublunare, poiché le stelle conoscer pretendete, e voi stessi laggiù non conoscete. Ha ragion, non so che dire. Io le farò venire, ma però con un patto che vuo senza recarvi pregiudizio, la vostra cameriera al mio servizio. Ma signor, già lo so che siete innamorato in quei begli occhi suoi, ma questa volta la voglia per noi. Dunque lei l'ha veduta? Signor sì, una macchina abbiamo da cui spesso vediamo quel che si fa laggiù nel basso mondo. È il piacer più giocondo che aver possan i nostri occhi lunari e mirar le pazzie dei vostri pari. Una mano su dai pena e poi crepa e poi crepa e se ne va. Un superbo senza cera vuol rispetto, vuol rispetto e allora. Un geloso e tormentato, un corrente criticato, quasi tutto il nostro mondo. Siete pazzi, siete pazzi, siete pazzi in verità, siete pazzi in verità, siete pazzi in verità. Chi sospira per amore, chi delira per furore, chi sta bene e può star male, e chi ha gran fumo e poco sale, al rovescio tutto va. Siete pazzi, siete pazzi, siete pazzi in verità. Chi sospira per amore e chi delira per furore, chi sta bene e può star male, chi ha gran fumo e poco sale, al rovescio tutto va. Siete pazzi, siete pazzi, siete pazzi, siete pazzi in verità, siete pazzi in verità, siete pazzi in verità. Voi avete due figlie, signor sì, fanciulle o maritate? Son ragazze e non ho ancora loro dato marito, perché non ho trovato un buon partito. Avete fatto ben, nel vostro mondo due cattivi mezzani soglion far qualche volta matrimoni, uno è il capriccio e l'altro l'interesse. Dal primo ne proviene la sazietà, dal secondo la mera infedeltà. Oh, signoria favella, come appunto parlar deve una stella? Qui non v'è alcun che dica di morir per l'amata, non v'è alcun che sia fido ad un'ingrata. Non vedrete chi voglia nella tasca portar ampolle o astucci con balsami o ingredienti utili delle donne a svenimenti. Ma se sviene una donna, come la soccorrete? Accostumiamo una corda a portare, e quando fanno tali caricature le facciam rinvenir a combattiture. Questo per vero dire è imperfetto elisire. È un elisir che giova, e credetelo a me, chi il so per prova. Thank you. io resto stupefatto. Questo è un mondo assai bello e assai ben fatto. Cantan si ben gli augelli, suonano gli arbocelli, ognun balla, ognun gode, ognun vive giocondo. Ah, che mondo felice, oh, che bel mondo! Me lo voglio goder, vo andar girando per questa che ser credo la principal città. Non so s'abbia d'andar di là o di qua. Oh, questa sì che bella, ognuno a sé m'appella, e mi sento chiamar di qua e di là. E siam sempre da capo, e vorrei venire, e non vorrei venire, sono fra il sì ed il no. No di qua, no di là, dunque resterò qui, sempre fermo così. Ah, ah, v'ho conosciuto, signore Cogarbato, oh, che piacer giocondo, oh, che spasso, oh, che spasso, oh, che bel mondo! Levategli la benda, orché la fortunata a questo nostro mondo è già arrivata. Ahimè, respiro un poco. Bella ragazza, io gioco, che dove adesso siete voi non immaginate. E che volete, caro signor Eclittico, che io sappia, dormiva ancor nel letto allorché son venuti quei marioli cornuti, m'hanno vendato gli occhi, m'hanno condotta via, e adesso non so dire dove mi sia. Lisetta, avete avuta la fortuna d'esser passata al mondo della luna. Mi fate ridere, non sono una bambina da credere a siffatte scioccherie. Delle parole mie voi la prova vedrete quando sposa sarete del nostro imperatore, che per il vostro bel viso arde d'amore. La favola m'allunga, il padrone dov'è? Morto si finse, ma nel mondo lunare egli è passato, e anch'io dopo di lui sono arrivato. Caro signor lunatico, non mi fate adirar, per qual cagione, ditemi, uscir di casa mi faceste? Di casa uscir credeste? Ma dal balcon passata foste qui da una nuvola portata. Orsù, tali pazzie soffrir non voglio, vo saper dove tende quest'imbroglio. Ecco il nostro padrone, domandatelo a lui che lo saprà. Io vado a ritrovar sua maestà. Quello è il padrone, è lui, non capisco la sua caricatura. Oh, che moda graziosa, oh, che figura! Lisetta, oh, benvenuta, tu ancora sei qui con noi, fortunata davver chi amarti puoi. Ma dove siamo? Nel mondo della luna. Mi volete ingannare? No, no, ve lo giuro. Questo è il mondo lunar, te l'assicuro. Ma dunque sarà vero che una nuvola qui m'avrà portata? Sei stata fortunata, perch'io ti porto amore. Sei venuta a goder sì grande onore. Ma qui che far dovrò? Quello che devi far ti insegnerò. Tu devi voler bene al tuo padrone. E non altro? Tu devi fargli qualche carezza. Lo sapete, signor, non sono avvezza. Credi forse che qui si piaccian le carezze col malizia che si fa noi? Qui ognuno si vuol bene con innocenza, e sbandita quassù la maldicenza. Se fosse così, sarebbe pur bello questo mondo lunar. Credilo, è tale. Questo mi piace assai. Vien qua, Lisetta, dammi la tua manina. Oh, signor, no. Perché? Perché non so se nel vostro operar vi sia tristizia. E qui tutto si fa senza malizia. Quando è così, prendi. Oh, cara madre! Piano, signore, piano! Voi me l'avete stretta sì furioso che mi parete alquanto malizioso. Io sono innocentino, credi, Lisetta mia, come un bambino. E caro bambinello, egli è tanto innocente quanto bello. Che dite che io son bello? Signor, sì! Quando lo dite voi, sarà così. È pazzo più che mai. Via, Lisettina, datemi un abbraccino. Oh, questo no. Senza malizia già v'abbraccerò. Quando fosse così. Così sarà. Non mi fido. Pietà. Se pietà mi chiedete, malizioso voi sì. Ah, malizia non ho. Ma cos'è quel sospiro? Io non lo so. Non tu pido, Buona fede, Elisetta, dite che il loro imperatore li aspetta. Vuo procurar finché la sorte amica il premio conseguir di mia fatica. Eccomi a cenni vostri. Cosa vino, cieco è l'imperatore. Elisetta, addio. Ti saluto, buon dì, cieco. Sei pazza, cosa dici al nostro imperatore? Pazzo sarete voi, ci conosciamo bene fra di noi. Bella, cieco non son, ma vostro sono. Olà, sinnanzi il trono, Lisetta vezzosetta e graziosina, vi voglio fare lunatica regina. Io non vorrei che il nostro imperatore mi facesse l'onore di rapirmi, Lisetta. E ben che dite, ecco il trono per voi, se la gradite. Il trono, ahimè, non so, e sono fra il sì ed il no, con tante cose stravaganti io vedo che dubito di tutto. Nulla credo. E via, venite in trono. Se vi piace il mio volto, sia cieco o non sia cieco, che cosa importa a voi? Dopo ci aggiusteremo fra di noi. E questa una ragione che non mi spiace. Vengo. Dove, Lisetta? A ricevere le grazie del nostro imperatore. Come? Non ti vergogni? Non hai timore della tua tristizia? E qui tutto si fa senza malizia. Lisetta, vada bene. Innocentino, il nostro imperator, come un bambino. Aspettar più non voglio, presto, venite al soglio. Dunque lei? Sì, mia cara, son vostro se volete. Lei? Al trono, al trono! Mm-hmm. Eccelso imperator, la fortunata, solo Lisetta è stata. Le povere mie figlie ancor non hanno avuto la fortuna di venire nel mondo della luna. Un araldo lunare ha già recato che in viaggio sono e che saran fra poco ancor esse discese in questo loco. Perché dite discese e non ascese per venire dal vostro a questo mondo, signore, si sale su? Or perché dite voi scendono qui? Voi poco ne sapete, il nostro mondo come un pallon rotondo dal cielo è circondato e da qualunque lato che l'uomo verso la luna il cammin prenda convien dir che discende e non ascenda. Sono ignorante ver, ma mi consolo che se tale son io non sarò solo. Allegri, o buona fede, con la coppia gentil scender si vede. Della luna imperatrice. Oh, fortuna usanze e insegnatele voi le nostre usanze. Obbedito sarete. Ehi, ehi, fermate, signor le figlie mie, con gli uomini non van da solo a solo. In questo nostro mondo le femmine ci van pubblicamente e non lo fanno mai segretamente. È vero, non parlo più. Contenta io vado, giacché il mio genitor non se ne lagna. Onespero gentil che m'accompagna. Thank you. siete del mio trono lunare cerimoniere, con Clarice gentil fate il bracere. Prontamente ubbidisco. E no, non voglio che mia figlia da un uomo sia accompagnata. L'usanza è praticata ancor nel nostro mondo, ma si serve da noi sol per rispetto, e non lo fanno qui con altro oggetto. Taccio, non so che dir. Vado contento a contemplar da presso le lunatiche sfere, col lunatico mio cerimoniere. Bella, eccomi a voi, vi voglio incoronare e nello stesso tempo anco sposare. Ringrazierò la vostra cortesia. Eppur sento un tantin di gelosia. Olà, vengano tosto le insegne imperiali e si facciano i gran cerimoniali. Ecco già preparato per la pompa real l'alto apparato. principessa mia monarchessa tutto di tono lo scelto è il cuor grazie di regno del vostro favor di cor mi consolo con vostra maestà Anch'io mi rallegro, signora maestà. Mi sono obbligata di tanta bontà. De lasci che almeno mi dia permissione. Sure.